in effetti in questo momento non ci sono i blindati, c'è la polizia che ha chiuso la strada con alcune volanti, e dopodiché chiaramente minacciano di far arrivare i blindati da un momento all'altro. Per quello che abbiamo capito, insomma, anche sentendo chi sta a Sette Camini, al momento la situazione è in stallo, anche perché si è chiesto fondamentalmente che la questione delle occupazioni messe in piedi ieri non venga affrontata in termini di ordine pubblico, per cui cercare di capire se il prefetto per esempio può svolgere una funzione da questo punto di vista. Chiaramente non c'è nessuna aspettativa, quello che conta insomma è la volontà, che ci sembra assolutamente diffusa, di resistere e di solidarizzare. In questo momento chiaramente c'è un tantam di telefonate, di situazioni che si stanno coordinando, perché nel caso in cui Sette Camini, Prenestina o chiunque altro venisse, chiaramente ci sarà una reazione congiunta da parte dei movimenti. Per quello che ci segnalano anche su Viale delle Province, lì fuori all'occupazione ci sono varie volanti della polizia, probabilmente immaginiamo che stiano mettendo in campo anche un meccanismo di pressione, provando a capire la nostra tenuta. Ripeto, quello che conta insomma è come stiamo noi, e mi sembra che da questo punto di vista stiamo bene. Perfetto, senti, quindi insomma in qualche modo è presente la polizia, però diciamo almeno nei prossimi minuti non dovrebbe aver luogo lo sgombero. Beh, anche perché ci sono quattro volanti, insomma, quindi non è immaginabile insomma che si avventurino da sole a fare uno sgombero. E al momento, ripeto, noi non vediamo i blindati, non sappiamo nemmeno se eventualmente avevano considerato di utilizzare gli stessi dopo Sette Camini per Prenestina, visto che non è insomma nemmeno così distante, non lo so, però insomma di fatto la strada è chiusa, perché via Prenestina 944 in realtà è una stradina, una traversina della Prenestina che poi rimane chiusa, comunque porta il civico 944, per cui fondamentalmente la polizia in questo momento ha chiuso l'ingresso della strada dalla Prenestina, ha fatto questo blocco lì. Ripeto, noi siamo sui tetti, al momento non vediamo blindati all'orizzonte, però quello che ci è stato detto appunto quando un'ora fa sono arrivate le volanti è stato stanno arrivando i blindati. Chiaramente, ripeto, il clima è molto bello, perché è lo stesso clima festoso di ieri, la gente non ha per niente paura, le signore soprattutto arabe si stanno agitando molto, urlando nei confronti della polizia dai tetti, insomma, per cui tutti molto determinati a resistere. Senti, ieri dicevamo, l'abbiamo detto tante volte, 3.000 persone hanno trovato un tetto nella nostra città, lì a Via Prenestina, quanto è la presenza numerica, anche per darci un'idea? Guarda, ci sono circa 1.000 persone. Quindi insomma stiamo parlando di un... Perché sono 300 nuclei familiari, per cui considerando insomma la media, chiaramente siamo entrati ieri, ancora non c'è stato nessun meccanismo anche di divisione degli spazi, siamo rimasti tutta la notte insieme chiaramente, facendo insomma un po' di turni nel dormiveglia a presidiare lo spazio. Chiaramente stamattina abbiamo lasciato che i bambini andassero a scuola eccetera, per fare vivere comunque un minimo di tentativo di normalità, per cui siamo meno di 1.000, però ripeto siamo diverse centinaia, insomma con uno stato d'animo ottimo. Va bene, senti, allora ricordiamo, il numero civico è il 944, 44, che per capirci, per chi viene dal centro è superato Metropolis, qualche esatto, centinaio di metri più sì, avanti sulla destra, cioè sulla, questa via sì, sulla destra se vieni dal centro, sì, sì, sì. E Vietta che in questo momento è presidiata dalla polizia, chiaramente insomma non c'è da sottolineare che più gente è presente, più forte la pressione degli attivisti e delle attiviste, più difficile sarà un eventuale sgombero, quindi insomma assolutamente penso che sia necessaria la solidarietà non solo insomma fra i movimenti che ieri hanno messo in piedi la grande giornata di lotta e di riappropriazione, ma chiediamo e crediamo insomma che ci sia la necessità di un sostegno da parte dell'intera città, perché chiaramente le questioni che stiamo ponendo non riguardano solo le persone che ieri materialmente hanno messo in campo queste iniziative e si sono riappropriate di un pezzo del reddito che gli viene negato, ma riguardano un po' il presente, il futuro di questa questa città, di tutti gli abitanti, gli abitanti che vivono insomma quotidianamente nella precarietà, in una città dove vengono privatizzati i servizi, dove insomma è complicato vivere sia dal punto di vista della qualità della vita che del reddito soprattutto, per cui ripeto, questa iniziativa è un'iniziativa che speriamo la città riesca a vivere come un'iniziativa per Roma, insomma, per liberare Roma da questa cappa, da questi signori affaristi luridi che insomma entrati in campagna elettorale chiaramente continueranno a completare lo scempio che hanno messo in atto.